Palazzo Barbabianca aveva una particolarità che risaliva al precedente proprietario, Fofò Cavatorta. E la particolarità era che tutte le finestre e i balconi che davano sul lato della via dedicata dal 1885 a Quintino Sella, lo statista che i siciliani ricordavano benissimo, magari senza bisogno di una strada, erano stati accuratamente murati a cantoni e calcina. Fofò Cavatorta non voleva correre il pericolo che il suo occhio, sia pure casualmente, cogliesse l'intimità della vicina casa Ciaramedaro. Insomma, signore, la vista dei Ciaramedaro intenti alle loro quotidiane occupazioni gli avrebbe procurato indicibili nausee. Preso possesso del palazzo ex Cavatorta, Don Totò vi aveva profuso ingaggiamenti e abbellimenti la vertiginosa somma di lire 60.000 e con questa spesa aveva magari comprato il diritto di farlo chiamare, da quel momento in poi, col suo nome. Non riaprì però le finestre e i balconi su via Quintino Sella. Sulla via Quintino Sella però c'era sempre stata e continuava a esserci un'apertura che nessuno mai era venuto in mente di murare. Una rustica finestrina che serviva a dare aria al tetto morto. E il tetto morto, si sa, non era posto di frequenza. Non era, perché qualche tempo dopo che a Palazzo Barbabianca era arrivata la moglie svizzera del figlio minore Gaetano, inteso Stefano, la signora Elke, quel posto aveva preso a essere frequentato due volte alla settimana, il martedì di dopo pranzo e il giovedì di mattina. Bionda come si conviene a una nordica, la signora Elke aveva via via conquistato, se non l'affetto, almeno la non ostilità dei Barbabianca a causa della dolcezza del carattere e dell'indubbia bontà d'animo. Fra l'altro, si era presa l'impegno di insegnare a parlare al figlio di Mariannina, la femmina di casa che aveva dato alla luce un caruso sordomuto. Quando era arrivata dalla Svizzera a Palazzo Barbabianca, il figlio di Mariannina, Totuzzo, aveva già 15 anni, ma ne dimostrava 25 ed era da tutti giudicato uno scemo irrecuperabile. Scemo magari lo consideravano i suoi coetanei, che tuttavia nutrivano una segreta invidia per certi suoi attributi virili, va, decisamente scicchigni, vale a dire più rapportati a un asino che a una creatura umana. Presosi l'incarico di educare Totuzzo alla parola, la signora Elke, che di necessità era costretta a parlare a voce alta per farsi capire dal sordo, aveva deciso di sbarazzare una parte del tetto morto dove poteva fare e disfare senza timore di dare fastidio agli altri. E la sua voce gutturale, che a volte si abbandonava a cadenze morbide, di petto, che quasi si confondevano con quelle delle colombe che facevano nido sui canali del tetto, aveva finito per assatanare Andrea, il 17enne erede di casa Ciaramedaro, il quale aveva smurato un cantone dalla finestra di una delle camere ridotte a ripostiglio perché priva di luce, e da lì poteva due volte alla settimana godersi la parziale visione della signora Elke, la quale, evidentemente stanca delle fatiche dell'insegnamento, ogni tanto si accostava alla finestrina del tetto morto, da cui si vedevano i tetti del paese e la linea del mare.